Di numeri, se la partecipazione dovesse scendere sotto l'80%, anche proprio di numeri, vedere un 7 sulla partecipazione, l'indice di partecipazione, sul tasso di partecipazione, sarebbe un dato non più fisiologico ma preoccupante. Se la partecipazione dovesse, insomma, avere una specie di risalita di china negli ultimi dati disponibili, quelli definitivi, e dovesse rimanere anche se di poco al di sopra dell'80%, comunque abbiamo a che fare con un paio di milioni di persone che non sono andate a votare, non è proprio poco. Decisamente no, tra l'altro i dati non sono raffrontabili con quelli del 2001, quando si votò, lo ricordiamo, solamente per una giornata, mentre invece sono raffrontabili con quelli del 2006. Daniele Biacchesi forse ci sta chiedendo la linea. Daniele. Io volevo solo ricordare che noi stiamo parlando, discutendo di dati che alla fine non solo non sono reali, ma per di più sono stati nel passato smentiti più volte, perché le metodologie, come sapete, sono completamente diverse da quelle che è l'elaborazione dei dati reali. E quindi anche adesso sto guardando sulle varie reti televisivi già dei commenti abbastanza forti, abbastanza così avanzati, che potrebbero poi, questo lo dico per esperienza anche nel passato, venire smentiti e essere smentiti nel giro di poco tempo. Però un'analisi la possiamo fare, che quel 4% che c'era ieri di astensione non è un segnale forte, a mio avviso, di antipolitica, cioè non dimostra nulla per quanto riguarda la cosiddetta disaffezione, che poteva essere invece molto maggiore per come c'era stata prospettata. Non so se i tuoi interlocutori sono d'accordo. Stefano, tu che cosa ne pensi? Il dato del maggiore astensionismo in sé è un segnale, va capito, adesso ci studieremo sopra, non è una valanga, no? Non è un'onda anomala, quindi ha ragione Biacchesi a questo punto di vista, però va legato un po' ad altri elementi che emergeranno. Ripeto, vedremo quante sono le schede bianche. Ricordo che nel 2006 gli exit poll sbagliarono, perché gli istituti di sondaggio non avevano calcolato l'impatto superiore al previsto delle schede bianche. Quindi anche questo è un elemento da calcolare. Diciamo, qualcuno si è astenuto, qualcun altro potrebbe aver votato scheda bianca, qualcun altro ancora potrebbe aver annullato la scheda. Sono tanti i modi in cui questa fatidica antipolitica, che non deve diventare un luogo comune, ma deve essere un criterio di analisi, in tanti modi in cui si può esprimere. E poi c'è la radicalizzazione, indubbiamente, no? Quindi il voto della Lega contiene anche un messaggio antipolitico in un certo senso, no? Di diffidenza verso le istituzioni centrali, eccetera. Così pure, evidentemente, il voto dell'Italia dei Valori. Quindi sono tanti fattori, tanti tasselli di un quadro che andranno messi insieme nel corso della giornata per capire meglio.